andare. È il mio momento. Buongiorno, questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Stai attraversando il suono di Gigi D'Agostino. Stai attraversando il suono di Gigi D'Agostino. D'Agostino. Gigi D'Agostino. I call you big daddy. I call you big daddy.

attenzione. Stai ascoltando Passi del Cammino di Gigi D'Agostino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Sogni su. Ma diciamo che a me mi piace molto sentire la musica da discoteca. E qua dobbiamo lavorare, non è che siamo qui a snocciolare l'olive. A fare un po' freddo. Scusate un attimo. Vado a prendermi una maglia. Yeah.

Avete capito? Lo avete scritto. Il numero dovrebbe essere quello, però non ne sono sicuro. Alla faccia di chi ci vuole male. Oh già già. Gigi D'Agostino, una grande famiglia danzante. Gigi D'Agostino.

Se per te è la prima volta, lasciati andare. Unisciti a noi. Suoni e colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Lento, violento, lento, violento, lento, violento, lento, violento, lento, violento, lento, violento, lento, violento, lento, violento, lento, violento.